Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Lo sapevate che il mercato digitale nel 2015, dati Assinform, è cresciuto dell'1,3% ed è il primo anno nel quale l'IT conosce un forte aumento. In particolare sono cresciuti i servizi di Information and Communication Technology e tutto quello che è trainato dall'industria, tutto quello che è trainato dalla fabbrica. Per esempio, i data center e il cloud computing sono aumentati del 12,3%, il software applicativo è aumentato del 5,8%, le piattaforme per la gestione web sono aumentate del 15% e tutto quello che è legato al mondo dell'Internet of Things, dell'Internet delle cose, che è un mondo di fabbrica, perché come vi abbiamo spiegato tante volte i componenti vengono collegati tra di loro e con la fabbrica e poi si può fare manutenzione predittiva, sapere tutto quello che succede ai prodotti, ecco, tutto questo è cresciuto del 16,7%. Insomma, l'informatica, grazie alla quarta rivoluzione industriale, torna ad andare bene. Questo argomento è uno di quelli che toccheremo con il professor Patrizio Bianchi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Che è uno dei massimi esperti in Italia di economia aziendale e di politica industriale e col quale faremo il punto sull'Industry 4.0. E poi nel corso della trasmissione ci collegheremo con un piccolo imprenditore dell'informatica, Clay Audino, di una società che si chiama Betacom di Torino, che proprio grazie a quello che sta avvenendo nella fabbrica ha visto aumentare, crescere il suo fatturato e lui ci spiegherà che cosa è successo. Ecco, la colonna sonora che avete sentito con la quale è partita la trasmissione è quella del film Steam Boy, che è un bellissimo film d'animazione giapponese sulla rivoluzione industriale, forse uno dei più belli che siano stati fatti. Ora, Roy Steam, che è il ragazzo protagonista del film, un ragazzo inglese, riceve dal nonno una misteriosa sfera metallica. Questa sfera metallica contiene vapore condensato ad elevatissima potenza, in pratica una bomba di energia, e lui durante tutto il film deve riuscire a gestire questa sfera per dei fini benefici. Perché mi è piaciuto, oltre che per suggerirvi il film che sulla rivoluzione industriale vi farà molto riflettere, perché mi è piaciuto parlarne? Perché questa sfera con energia ad elevata potenza mi ricorda la massa enorme di dati che l'Internet delle cose, la quarta rivoluzione industriale, accumulano e che deve essere gestita. Il grosso problema è un problema di data center, anche per questo che poi l'informatica con la quarta rivoluzione industriale cresce, perché bisogna gestire questi famosi big data, che sono delle masse di miliardi, decine di miliardi di byte che devono essere filtrati, interpretati, utilizzati esattamente come la sfera di vapore condensato a potenza elevatissima tale da distruggere una città che riceve Roy Steam. Ma lui questa sfera la può utilizzare oppure ci può semplicemente giocare a palla e farci niente. Ed è un po' il paradosso della quarta rivoluzione industriale. Ho detto bene, professore? Sì, sì. Ma guardi, è il paradosso di tutte le rivoluzioni industriali. Lei pensi che la prima ferrovia fu fatta a Napoli, ma essenzialmente per portare avanti e indietro la famiglia reale, la stessa ferrovia venne usata in Inghilterra per portare avanti e indietro il carbone dalle miniere alle fabbriche. Quindi il problema è questo enorme potenziale, come lo usiamo? Lei ha detto bene la parola big data, perché oggi noi abbiamo, a partire dal nostro telefonino, una produzione continua, esponenziale di numeri. E allora il problema non è soltanto avere il magazzino dei numeri, ma avere anche le chiavi per aprire i diversi cassetti. E quindi si apre anche i due nuovi mestieri. Uno, la grande infrastruttura di ricerca, quindi i grandi contenitori, il treno di questa rivoluzione, la ferrovia, scusa, di questa rivoluzione. Dall'altra parte il nuovo mestiere dei privati, che è quello di inventare continuamente delle chiavi utili per fare del bene. Ecco, ma in Italia con l'Industry 4.0 a che punto siamo secondo lei? Guardi, la parola 4.0 è stata un marchio di fabbrica dei tedeschi. È stato il governo tedesco che ha fatto un atto di politica industriale quando ha chiamato tutte le grandi imprese, tutte le piccole imprese, tutte le università, tutti i centri di ricerca e ha detto: adesso vi occupate di quella che è la nuova economia digitale in cui tutto il mondo diventa una fabbrica e la chiave di volta è come unire i diversi pezzi. Quello che lei ha chiamato prima l'internet delle cose. Ma come in internet si usa una parola che secondo me è importante, cioè l'idea si naviga su internet si può anche naufragare. Questo vale anche per le nostre imprese. Noi in Italia abbiamo molte imprese di grandissima qualità che in questi 10 anni di crisi generalizzata hanno, primo, mantenuto la barra sulla manifattura, secondo, fanno macchine per gli altri, quindi esportiamo tecnologia noi da questo nostro paese, terza cosa, gestiscono macchine remote. Questo è già 4.0, ma noi, diversamente dai tedeschi, non gli abbiamo dato il nome e quindi non sappiamo neanche, uno, che abbiamo grandissime strutture di ricerca e grandissime strutture che collegate assieme possono essere il grande big data del paese. Ecco, professore. Imprese capaci di farlo. La devo interrompere un attimo perché bisognerebbe soffermarsi su quello che lei ha detto a proposito dei tedeschi. È vero, Industry 4.0 si dovrebbe chiamare Industrie 4.0. Com'è che si dice 4 in tedesco? Fir. 4 si dice Fir. Perché sono stati loro che hanno colto che dall'Internet of Things, che invece è una cosa tipicamente americana, e da qui il saggio di Jeremy Rifkin che vi consiglio, si arrivava all'interconnessione delle fabbriche, che questo riguardava il sistema nazionale. E quindi hanno fatto una politica che è proprio un esempio di politica industriale, l'esempio di un atto consapevole di un'autorità di governo che chiama l'intera comunità nazionale a orientarsi unitariamente, esatto, e coerentemente verso un nuovo profilo dell'economia e della società tutta. A lei queste parole piacciono perché le ha scritte lei. Io le ho appena letto. Trovo che siano parole molto, molto, molto piene di significato. Perché è l'editoriale che lei ha fatto sul Sole 24 Ore. Comunque, a proposito dell'Industria 4.0, io in tedesco non riesco a dirlo, ecco una scheda per dire che cosa significa e quale impatto ha. Industry 4.0 è un termine inventato nel 2011 da un gruppo di studio del governo federale tedesco per definire l'impatto sulla manifattura della totale interconnessione degli oggetti fra loro, attraverso Internet of Things. Il presupposto è che ogni componente sia dotato di un sensore, permettendogli così di dialogare con gli altri componenti e con la fabbrica stessa, prima, durante e dopo la produzione. Questo genererà una massa enorme di informazioni, i famosi big data, che software appositi filtreranno e valuteranno, permettendo di prendere decisioni in termini di gestione, manutenzione e utilizzo del prodotto. Per le fabbriche e anche per l'intera società, tutto ciò comporterà un cambiamento epocale. Per esempio, saranno ridotte al minimo le scorte, i magazzini. I componenti arriveranno just in time, solo quando saranno necessari per assemblare il prodotto e potranno essere assemblati fra loro in infiniti modi diversi e personalizzati. La manutenzione dei prodotti sarà fatta grazie alle notizie ottenute in tempo reale sul loro stato, cosa che permetterà interventi mirati e tempestivi. Qualunque prodotto sarà infatti monitorato in tempo reale, da parte di chi lo possiede e anche da parte di chi lo ha realizzato. L'uso delle informazioni ottenute da questo monitoraggio cambierà il modello di business di quasi tutte le aziende. Ciascuna impresa, per sfruttare queste informazioni, dovrà essere interconnessa con clienti, fornitori, trasportatori e perfino concorrenti. Insomma, il risultato dell'Industry 4.0 sarà un ambiente di produzione molto più flessibile, con minore controllo centrale e più intelligenza diffusa. Già adesso gli stabilimenti produttivi si stanno trasformando in smart factory, fabbriche in grado di realizzare prodotti qualitativamente più elevati, su volumi minori e capaci di venire incontro alle reali esigenze della clientela, con costi e sprechi minori. E soprattutto fabbriche con pochi o nessun operaio, ma molti ingegneri ed operatori software. Ma perché si parla di quarta rivoluzione industriale? La prima, datata 1784, è quella della meccanizzazione della produzione sfruttando il vapore. La seconda rivoluzione industriale, nata ufficialmente nel 1870, è quella resa possibile dall'elettricità e che ha visto divisione del lavoro e produzione di massa. La terza, datata 1969, è quella dell'elettronica e dell'automazione. La quarta rivoluzione industriale, sorta ufficialmente nel 2011, è quella del mondo totalmente interconnesso. Avete appena ascoltato una scheda sull'Industry 4.0. Dicevamo col professore che in Italia non si è fatto un ragionamento di sistema, no? No, assolutamente. Anzi, noi abbiamo, come sempre, molte più cose di quanto noi stessi non riusciamo a raffigurare. Noi abbiamo tutti i pezzi, tutti i componenti, ma non abbiamo ancora trovato il marchio che li unisce, il disegno che li unisce, anche la visione in cui tutti si possono riconoscere. Ma la troveremo mai? Perché la mia impressione è che ci siano alcuni imprenditori, soprattutto imprenditori meccanici, che si sono ben resi conto della portata della faccenda, si sono organizzati da soli. E poi forse c'è qualche iniziativa sul territorio, come da voi in Emilia Romagna, certo. Ma per il resto non credo che gliene importi qualcosa a qualcuno. Ma guardi, noi in Emilia Romagna stiamo organizzando adesso il nostro Big Data, anche perché da noi passano tutti gli incroci dei grandi sistemi. Pensi ad esempio il Cineca, che è il consorzio di tutte le università italiane che hanno messo insieme i loro sistemi di calcolo. Pensi che ad esempio da noi passa il Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è quello che fa, diciamo, il retrobottega del CERN di Ginevra. Tutti parlano del CERN, ma nessuno sa che quei grandi esperimenti hanno la loro base in Italia e qui in Emilia Romagna. Però mi permette di fare la considerazione che dicevamo prima. Guarda, io credo che in questo momento rendere evidente a tutti che nel nostro paese abbiamo la possibilità di diventare leader in un sistema industriale che è flessibile, intelligente, ma anche capace di rispondere a nuovi bisogni, darebbe anche una grande forza a tutto il resto del sistema industriale italiano. Assolutamente sì, ne sono convinto. Infatti questo, se posso fare una parentesi personale, è un po' il motivo, il filo conduttore della mia attività giornalistica negli ultimi anni. Però la devo interrompere perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Ci ricolleghiamo fra un minuto, restate con noi. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano speciale Sanremo, alle 15.30, rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando dell'Industry 4.0, di come si sta sviluppando in Italia, di quanto sta spingendo l'area ICT e servizi e di che cosa devono fare gli imprenditori per poter cavalcare questa rivoluzione informatica traendone un utile. Però intanto volevo sentire un piccolo imprenditore dell'informatica, Clay Audino della Betacom di Torino, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, l'ICT, come lei avrà sentito, sta andando meglio, anche perché ci sono questi fenomeni, queste rivoluzioni legate al mondo della fabbrica che sostanzialmente danno da lavorare a tante imprese, inclusa la sua, no? Esatto, esatto, sì. Diciamo che per noi questa nuova rivoluzione industriale, dove si parla molto di appunto Internet delle cose, la fabbrica del futuro, ha rappresentato e rappresenta una grossa opportunità. Io ho letto che voi avete quasi raddoppiato il numero di dipendenti negli ultimi anni, no? Sì, sì, negli ultimi 2 o 3 anni noi abbiamo raddoppiato il numero di dipendenti che lavora con noi, che ci supporta per appunto portare avanti il business in questa nuova rivoluzione. E questo è successo grazie anche molto al lavoro che vi danno le industrie manifatturiere, che devono adeguare tutti i loro sistemi a... Certo, certo, sì, sì, perché comunque l'IT è al centro di questa nuova rivoluzione industriale che stiamo vivendo. Diciamo che il nostro compito è quello appunto di integrare e trasformare i processi, eliminare gli sprechi e introdurre nuovi modelli di business. Quindi ecco, ci sentiamo protagonisti di questa nuova fabbrica. Ecco, ma voi fate sui 15-16 milioni di euro, se non erro? Sì, esatto, esatto. Sì. E il raddoppio dei dipendenti di quanto è stato? Ma diciamo che noi negli ultimi 3 anni siamo passati da 130-140 dipendenti ai 270-280 che contiamo oggi. Accidenti. Poi lei ha fatto anche una associazione che raduna imprese dell'ICT che hanno a che fare con la nuova rivoluzione industriale. Ce ne parla un attimo? Sì, sì, esatto. Io sto partecipando alla vita associativa di Confimi, che comunque è un'associazione di piccole e medie imprese incentrata molto sul manifatturiero, e quindi si parla tanto anche lì di fabbrica 4.0, di Internet delle cose, quindi insomma è un po' al centro dei programmi che stanno portando avanti. Lei ha anche un ruolo in Confimi. Sì, io sono stato nominato da poco presidente della Lombardia del settore ICT. Ma quali sono le difficoltà che le aziende come la vostra in un momento come questo devono affrontare con più determinazione? Ma guardi, sicuramente in questo momento bisogna dedicare molta attenzione alla ricerca, a essere innovativi, a confrontarsi col mercato. Si diventa sempre più internazionali e quindi bisogna guardare anche oltre confine per vedere come ci si può espandere, chi possono essere i nostri competitor. Cosa ne pensa, professor Bianchi, delle parole del nostro piccolo imprenditore di Torino? Penso che siano anche una linea molto chiara per tutto il paese. Mi faccio tornare sempre a questo ragionamento. Quando si parla di questi argomenti, noi dobbiamo sempre considerare che è un gioco in cui devono giocare in tanti. C'è anche un problema di tutte le nostre università e i nostri istituti di ricerca, perché quando giustamente si dice la ricerca non può essere fatta tutta a carico delle sole imprese. Quindi dobbiamo legare di più il sistema universitario, il sistema imprese e quel sistema che di cui parliamo pochissimo, che è fondamentale, che è il sistema degli enti pubblici di ricerca, a parlare dal CNR. Lì si fa quella ricerca, chiamiamola di base, che poi può arrivare alle imprese e poi le imprese la applicano. Quindi è un gioco che deve essere un gioco veramente di squadra. Il piccolo e medio imprenditore che ci ascolta, che cosa deve fare se vuole cavalcare questa rivoluzione con successo, trarne un utile? Ma guardi, il piccolo imprenditore innanzitutto deve capire lui quali sono le sue competenze effettive. Il singolo non può giocare su tutto, quindi deve capire cos'è la sua specialità. Ma poi deve fare quello che si chiama la ricerca della complementarietà, cioè chi sono gli altri con cui giocare questa partita. Poi certo, all'interno di questo c'è il tema della ricerca. Le stavo proprio dicendo, sul tema della ricerca, un elemento fondamentale è non soltanto che i grandi istituti si mettono a disposizione, ma le imprese siano in grado anche di penetrare dentro alle istituzioni di ricerca. Questo è il tema di oggi, perché vi ricordo che quando si dice ricerca, la ricerca è una ricerca applicativa che è delle imprese, una ricerca di base che è università e istituti di ricerca. E poi c'è quella pre-competitiva che sta in mezzo. È quella che sta in mezzo. quella su cui in molte regioni hanno anche investito i fondi europei, perché è chiaro che i fondi europei servono per mettere insieme, sono fondi strutturali, quindi vuol dire non sussidi, questa è finita, ma sono i fondi per il salto, però è un salto collettivo e quindi il mettersi assieme, ho sentito molto le parole dell'imprenditore quando ha detto io sono un imprenditore che faccio ricerca, innovazione, internazionalizzazione, le tre parole chiave, ma mi sono fatto promotore di un'associazione per mettere insieme un sistema che può risolvere insieme i diversi specifici problemi. Credo che questa sia la chiave della partita. Claudino, lei che cosa ne pensa? Ma assolutamente sì, bisogna cercare di collaborare, di confrontarsi quotidianamente. Noi abbiamo rapporti costanti con università, con centri di ricerca per portare l'innovazione all'interno delle nostre aziende e poterla trasmettere ai nostri clienti, che è un po' la chiave di quello che facciamo tutti i giorni. In ogni caso, la società intera per questa quarta rivoluzione industriale è alle prese con un cambiamento molto forte e anche che comporterà molti sacrifici in termini di posti di lavoro. Il World Economic Forum ha stimato l'impatto della quarta rivoluzione industriale sulle economie avanzate da qui al 2020. Il risultato è che andranno persi 5 milioni di posti di lavoro, quindi 5 milioni di persone a spasso, che verranno sostituite da 2 milioni di nuovi posti di lavoro. E sarà un salto sociale enorme, perché non è che i 2 milioni che hanno un nuovo lavoro escono dai 5 milioni. I 2 milioni sono veramente giovani o persone che prima non avevano un lavoro e che entrano adesso nel mondo del lavoro. I 5 milioni che escono dal mondo del lavoro non hanno nessuna speranza. Sarà gente che si girerà i pollici, perché come sempre, quando ci sono le rivoluzioni industriali, il momento di cambiamento è quello che è più duro e quello che ha più incidenza sui posti di lavoro. Poi avviene una sorta di compensazione per cui viene creata nuova occupazione, ma negli anni della frizione c'è chi paga il conto per tutti. Secondo World Economic Forum, il settore che più avrà opportunità sarà quello della finanza e lì è prevista la creazione di 492.000 posti di lavoro. Poi il management con 416.000 posti di lavoro, poi l'informatica che, come dicevo, trae alimento da questo e quindi 405.000 posti di lavoro in più, seguita dall'ingegneria 331.000 posti, dal commercio 330.000 e anche dall'education, dalla scuola, perché la formazione sarà importante, e quindi 96.000 posti di lavoro in più. Ma chi sono coloro che invece andranno a spasso e che pagheranno il conto per tutti? In primo luogo gli impiegati amministrativi. Secondo World Economic Forum ci sarà una vera e propria strage di amministrativi. Poi il comparto edile, con 1.609.000 operai edili che perderanno il lavoro e non lo troveranno mai più. Poi il comparto degli operai manifatturieri, con 497.000 operai a casa, e anche entertainment, media e giornalismo, che perderanno 151.000 posti di lavoro. Cosa ne dice lei, professore, di questo scenario? Questa lista di buone notizie si conclude che anche i giornalisti dovranno soffrire. Ma detto questo, credo che anche i professori lo faranno, perché ancora una volta però abbiamo sempre queste proiezioni su cui io sarei molto cauto. Non dimentichi che fino a qualche anno fa la teoria generale era: in Europa, in Occidente tutta la finanza, in Oriente tutta la manifattura. Teoria che è stata disastrosa per noi, perché in realtà i paesi che sono, non dico salvati, ma che hanno mantenuto tutto sommato durante la crisi, sono i paesi che hanno continuato a investire in manifattura. Ecco, allora adesso questa teoria invece che dice che ci sarà posto per gli informatici e i manager e meno posto per gli operai potrebbe essere contraddetta? No, perché dice che la manifattura ha bisogno di essere più ad alto valore aggiunto. La parola chiave è il valore aggiunto. Ma infatti prevedono 405.000 posti nell'informatica, 331.000 nell'ingegneria, certo, però mezzo milione di operai generici a casa. Mezzo milione di operai generici a casa, da una parte si sta intervenendo, si può intervenire per qualificarli, ma dall'altra parte però la logica che deve guidare tutto è, le dicevo, il valore aggiunto. Il valore aggiunto si crea con le persone e si crea investendo nelle persone. Non dimentichi che tutti coloro che negli anni hanno detto ma si vive in Europa tagliando i salari, in realtà sono saltati tutti per aria. Ma certo. Si vive in Europa alzando la qualità, il contenuto e l'educazione. Educazione e ricerca, competenze e ricerca sono la chiave di tutto. Dopodiché facciamo il calcolo anche sui nuovi bisogni delle persone. Ecco, il World Economic Forum prevede una strage dei ragionieri. I ragionieri facevano parte del vecchio. Quello che salta fuori è che invece ci sono dei bisogni e saranno sempre più legati in nuova industria, che paradossalmente sono le più antiche delle industrie. Perché sono ad esempio tutto il recupero del territorio, ma tutto certamente. Il recupero del settore agroalimentare che sta crescendo, sono il recupero di tutta questa idea di salute che non coincide con quando lei è malato mi cura, ma con come faccio a non essere malato. Ricordi che la età della vita è aumentata moltissimo in questi ultimi anni. Il tempo è tiranno, sì. Ma anticipo ai nostri spettatori, ai nostri ascoltatori, che faremo una puntata dedicata all'impatto della crisi nei paesi come la Cina, la Russia, i paesi in via di sviluppo, sulla manifattura e sull'industria italiana, e l'ospite sarà di nuovo lei. Invece domani, domenica, alle 13:15, parliamo di come cambia la fabbrica automobilistica con Stefano Aversa. Ora saluto il professor Bianchi, arrivederci. Saluti a tutti voi, a presto allora. E saluto Clay Audino, arrivederci. Grazie, buona giornata.